Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte, buona serata per chi confonde ancora la notte con la sera, la sera con la notte, a me va benissimo. Sono Marco e vi vorrei proporre due proposte, una canzone che è stata trascurata ma non è passata poi del tutto inosservata dei Marlon Kunz, è un mio pezzo, un mio scritto legato a questa canzone. Io sono di Como come voi, come la maggior parte di voi, e intendevo rappresentare con questo pezzo, soprattutto la canzone parliamo adesso, di una donna che attende un amore, come dice lo scrittore dei Marlene che racconta questa canzone, che non arriva, che poi dimenticano, però, e fa altro, no? Però anche soffre, quindi come soffre lo scrittore, no? Ecco, io mi sono trovato in una condizione parallela veramente eclatante, che in cui la persona ha lo stesso nome e tutto il resto, e tra l'altro fa parte di un periodo di vita dove possiamo dire ho ingranato un po' con una filosofia più spartana da una parte, ma anche, non voglio dire ateniese perché se no non mi capireste tutti così bene, direi più troiana dall'altra, ma non tanto nel sesso, non proprio nel sesso, ma nel lusso, quindi sì, c'entrava anche la lussuria, però ecco, questa, per chi mi conosce, per chi non mi conosce, questa canzone di Marlene rappresenta quindi da una parte la sobrietà dell'attesa e della preghiera di fronte alla castità e dall'altro, beh, naturalmente negando poi quello che viene invece declamato nella mia poesia, che è la reviviscenza dell'amore nei gesti, come dire così, più da una parte movimentati, statici del sesso stesso, ma non solo dello sesso, della gola, del palato, diciamo, se non vogliamo parlare di gola, tutto ciò che ci porta al giubilo, al gaudio e alla felicità, che in fondo è appunto, come diciamo, la castità da una parte, ma dall'altro anche la lussuria. Il segreto, secondo me, è vivere entrambe quantitativamente e qualitativamente in maniera non abnorme, non senza un abuso dell'una né dell'altra. Anche del digiuno, della dieta non dobbiamo abusare, anche della veglia non dobbiamo abusare, ma così anche del sonno non dobbiamo abusare, anche del cibo non dobbiamo abusare, quindi così del sesso non dobbiamo abusare, così non dobbiamo abusare nemmeno della castità, perché altrimenti abbiamo dei problemi anche fisiologici, anche con un eccesso di castità che, per quanto anche assoluta, possa essere adatta ad alcuni caratteri più meno transigenti, sicuramente nobili, ma anche magari non proprio precisi alla massa, ecco, che comunque va bene anche essere delle pecore, non è che dobbiamo per forza essere dei leoni, ecco, insomma, come San Marco, San Paolo, però possiamo fare tutte e due le cose, ecco, dicevo io, ad esempio, possiamo fare tutte e tre anche, capito? E questo è il punto. Ecco, adesso vi mando la canzone Laura di Marlon Kunz, ecco, arrivo adesso, thank you. ecco, adesso vi verrò a leggere quella che è poi la rappresentazione così più organica, nel senso scritta naturalmente, di questo concetto, di questa attesa tediosa ma anche divertente, per carità, dell'amore per il poeta, che è poi la rappresentazione di Francesco Petrarca e Laura, e la presenza anche di altre persone come i re, i papi, eccetera. Va bene, vi leggerò questo pezzo. Il torto di Torquemada. Stasi del tessile, tessuto di pistacchio, pasticcio di stato, istrione impasticcato. Quando la vita balla, la morte danza. Quando muore un ballerino, un danzatore è morto. L'estasi tattica è un'estate tecnica che catta tacche attaccate alle gatte o cerbiatte che del sapere conobbero la scienza, che della scienza seppero la conoscenza, che della conoscenza sentirono il sapore sapido e spesso, è spesso saporito e sovente saporoso. Soffermati e soffia, che soffoco sfiorito, che sfiorisco soffocato, soffice cefalo faceto, incellofanato acefalù. Amor di morte, morte d'amore, amara vita e vita d'amare, senza però rapprendersi in repressioni rancide, incidendo redivivi i renitenti, tutti attenti nel tendersi, intenti e continenti nel contenzioso distinto, nell'incontenibile destino, destinato a contenersi. Ieri, ieratico, uno psichiatra mi ha contrattato l'imprescindibile. Due fiori cimati, una cima fiorita, resine impollinate, pollini resinosi. Mi fuorviava la fuoriuscita di un forsennato, nato forse a Forlì, infrantosi sinuoso in un'insenatura o in un fiordo florido, dissennato, diserrato e con le derrate a vettovaglia vagliate dal drago, l'inestimabile Dalv, dell'algida gilda leggendaria di Re Dario. Quanto a quello, questo è quanto, questo è quale a quello, quanto quello è quale a questo. Questioni tranquillini, inquisitori e inquirenti, perduti nel vincere una vittoria invincibile, venturosi, fortunati, fortunosamente avvenenti, avvinti ed avventati. La mia colpa è vivere una vita vivace, vitale, come vittima invitta dell'ineluttabile, che la bile intacca e che le tacche imbrigliano. Il verme cremisi, mio misero ermete, dalle erme ematiche, tu m'hai fatto tafano, amante inammucchiate di mummie ammoffite e fumiganti, gergo della dizione, parola della lingua, verso del linguaggio. Ricorda, se la tua leggenda sarà storica, allora la tua storia sarà leggendaria. Sella che cavalca, cavallo che dissella. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.